inizia per farci riscaldare dai gas, per perderci nel traffico, per perdere peso atomico, per perdere peso atomico, per perdere peso atomico, per perdere peso atomico. Le valigie sono pronte per viaggi mai fatti, perché c'era il mare alto, perché c'era l'affitto e mi scrivevo addosso parole autunnali con inchiostro indelebile. Che d'altronde sai che in foto esco male, che d'altronde sai che in foto esco male, che d'altronde sai che in foto esco male, che d'altronde sai che in foto esco male. Ma andiamo a farci formattare l'indole, a farci ritoccare i sogni da Photoshop, per fare cabaret dei nostri desideri e partire per viaggi in astronave, approfittando della Sminit, approfittando della Sminit, approfittando della Sminit, approfittando della Sminit. Le nostre camere oscure.